l'Ohio, perché l'Ohio è così particolare? Intanto perché lo dice la statistica, nessun presidente repubblicano è stato mai eletto senza vincere l'Ohio. Secondo perché nelle ultime 8 elezioni presidenziali, credo siano 8, chi ha vinto l'Ohio ha vinto la Casa Bianca. L'Ohio è un po' l'ombelico del paese, so goes Ohio, so goes the country, si dice, cioè come va l'Ohio così andrà il paese, e quindi è una lancetta importante dell'opinione pubblica nazionale.